Marino, Pensiamo ai Bacchisio, cambio? Mi ascolti, Marino? Ti sento, ma c'hai leggermente un po' di QRM. Comunque ti sento bene, comunque. Grazie, ti ho ascoltato. Aspetta tanto, mi ascolti? Sì che ti ascolto benissimo, Bacchi. C'hai leggermente un po' di QRM. Comunque, ti ascolto bene. Marino, non ti ascolto bene. Tu bene mi ascolti, sì. Bacchisio? Attenzione, Marino. Non mi senti, Bacchisio? Bacchisio, non mi senti? Attento, Bacchisio, cambio. Ascolti, Marino. Mi ascolti? Attenzione, Bacchisio. Attento, Bacchisio, cambio. Attenzione, Bacchisio, cambio. Attento, Bacchisio, cambio. Appazzi tutto. Attento, Marino. Marino, ci sei? Attenzione, guarda, ti sto chiamando io. Attento Bacchisio, se stai ascoltando. Marino, ti ascolto, benissimo. Siamo leggermente QRM, Bacchi. Leggermente QRM, infatti adesso mi dà 1,4. Come l'ho girato mi dà 1,4. Perché ti ascolto bene, capito? Siamo leggermente QRM e basta. Prova a girare leggermente. Bacchi. Bacchisio, cambio. Attento Marino. Bacchisio, cambio. Marino. Prova a modulare, Bacchi. Prova, avanti. No, niente. Aspetta che posso l'antenna. Prova a spostare l'antenna. Attento, Bacchisio, cambio. Attento, Bacchisio, cambio. Non mi senti adesso? Adesso ti ascolto. Ti ascolto anch'io, Bacchi, dai. E adesso mi ascolti? Certo che ti ascolto, dai. Benissimo. Adesso è puntato verso di te. Tra un palazzo e l'altro, capito? E ci sono 25 metri di cavo, uno di stazionario. E adesso ascolto benissimo le Bacchie, abbastanza bene. Allora la terminiamo così. Va bene, lasciala così direttamente, guarda. E ti mando una foto poi, Mario. Ma vicino a te cosa c'è? La 27 c'è accesa vicino a te? No, è spenta. Insomma, avessi dato un controllo. Aspetta, non ho scaldato per niente quello lì, è spenta. E vabbè, se in caso stasera o domani, dai. Va benissimo comunque. Allora terminiamo i lavori così. Terminiamo i lavori e andrà bene. Mettagli un pezzo perché c'è un pezzo in più. E ok, dai, ci sentiamo stasera, buon pranzo, Bacchi, dai. Ciao Marino, grazie dei controlli e scusa se ti ho disturbato. Buon pranzo a te e famiglia, ciao Marino. Cosa hai disturbato? Non c'è problema, Bacchi, lo sai, non c'è nessun problema. Tu basta mi chiami e io ti controllo, non c'è problema. Ok, stasera buon pranzo anche a voi, ciao. Ciao Marino. Chi c'è? Ciao Gio Maria, curone, E già ti sento, basso ma già ti sento. Ehi, già ti ho capito se Gio Maria. Tanti auguri, Gio Maria. Abbastanza bene, tu? In campagna sei? Già si sente bene. Negativo. Arrivata quest'ora sono ancora in buttende. Ehi, a casa sono. E sto aspettando che mi chiami mia madre per andare a recuperarla. E uguale anch'io, io sono con il portatile, con il gommino. No, Gio Maria, ripari i lavori a tutta la famiglia tua, vai. Ricambiato al 100. Ciao. Chi è che è morto? Su. Che busta del convento? Santa Marino. A ci sei. Attento, Graziano. Ciao Bacchi, ben sentito. L'uovo mangiato tra di Pasqua. Oh, Graziano, grazie dell'uovo. Non l'ho mangiato. Perché ho mangiato l'uovo della gallina? Io l'ho mangiato e anche bello ricco era il mio uovo. Chiedilo a Luca Manicomio. Aspetta che abbassi, prendi i calzini. Ecco qua. E così è grazia. L'uovo di Pasqua mangiato e digerito. Oh, questa radio non c'è mai nessuno. Boh. Oh, buonasera. Buonasera signor Luca, me ne sono scucciato e auguri, buona Pasqua, magari stia finendo, buona Pasquetta. Avanti ancora. Tutto contraccambiato, Bacchi, saluto anche a te e famiglia, dai, buona Pasqua. Tra un po' è Pasquetta, dai. Se può permetterlo domani, boss, vediamo. Andiamo a farci un giretto. Come si chiama quello là? Renzo Arbore, c'è ad Alghero. Non mi sembra che il tempo stia mettendo a fumare, io lo vedo un po' nuvoloso. Lo vedo un po' nuvoloso. Forse grazie, avanti. Ehi, ciao Luca, ben sentito. Dilla Bacchisa il mio uovo quanto era bello ricco, Luca. Guarda Bacchi, c'era l'uovo Kinder, la mazza, tutto carico di soldi era dentro. Invece dalla sorpresa c'erano i soldi, dentro quel bussolotto, come lo vuoi chiamare. Sono fortunato allora. È nato con la camicia Graziano, per quello è. Io niente, cara, non ci ho trovato niente. L'uovo Kinder si chiama, era uovo Kinder. Già era bello grandetto, guarda il palmo della mano, va. E dentro c'era la sorpresa. Era quella, bella la sorpresa, bellissimo. Uia. Andiamo a Benemeda, ma come mi ascoltate stasera? Ho cambiato antenna, eh. Un'antenna piccolina, mi ascoltate bene o peggio di prima? Io bene, chiaro e forte. Luca, tu come lo occupi? Luca sta mangiando l'uovo, grazie. E deve essere non ce l'abbia mangiato tutto. Luca Maricubio. Oh, dimmi, grazie. Come lo senti a Bacchisio che ha cambiato antenna più piccolina? Lo sento, Bacchisio sempre a me arriva bene, cioè arriva, la radio è un po' bassa. Ascolta, un po' basso, devo abbassare il volume quando ho fatto. Poi ce lo sento, fondo scala, siamo a due passi. Sono due palazzi che ci ostacolano, è buio. Cosa, quando andano così saranno 200 metri, neanche. Adesso dalla parte tua, Bacchi. Dalla parte, è abbassata, dai. Perciò, si affondò scala. Io arrivo benissimo anche tu, noi, c'è da piangere. Oh, yeah. Marino dice che ci andiamo, sta facendo stamattina, e stasera ci sentiamo, ma mi sembra che ce no. Oh, scusatemi, se ti sente, mi faccio una doccetta veloce, dai. Mi assento. Ho fatto una bella doccetta veloce, fresca però, mi. Beh, minimo, ora in campagna, se non entra tipo con fa, dai. Dove stavo rilassato, stavo giocando a poker, poi era tutta la sera. E poi mi ha dato un messaggio a Graziano e poi ha chiamato, dai. A frappi. Sì, ok, no, chi è la torsa accesa, la console della campagna è accesa, nessuno si è affacciato. Avanti, grazie. Ehi, beh, saranno gli ultimi anni, ci staranno abbuffando ancora, io già ho mangiato normale. E c'era di tutto, dalla la zetta. Però ho mangiato normale, non saranno. Infatti. Normale, anche io, noi mi si è abbuffato, ho mangiato quello tantino su e giù, basta. È un giorno come tutti gli altri. Ah, per carità, no, sono finiti i tempi di basso, di maniati. Ma ogni tanto già va bene, ma spesso non fa più. Adesso ci sono gli anni, grazie, che pesano. E dunque un mangiare pesante non va più bene, bisogna tenersi leggeri. Oh, la sai va via la banza, canta un tamburo, va via. Non vedi allora arrivi a casa, a farmi rude, e a chi me la esplodendo stava, di canto era un fiata, bella piena, quasi una bettumiera. In campagna ne si è andato oggi, no? E si è compreso, ma chi so se è a nuotare aria? Oggi sì! Beh, oggi a fare compagnia a mia cognata e ce l'abbiamo spassata bene, là. Ma fa mangiare a vela di tutto! E la gente che ci deve mangiare, ma sa niente di vivi! Capita! Ma l'esercito ha culto, no? Già te lo mangi tu. E un bel fuori, andava di un bel, allora. E mi lasci molto di fame, mi criticheggiano, capito? Allora era fatto un'abbondanza. No, che da voi? Erami in quattro. Inseguitami. A chi me ne voti? La limitata c'è di tutta l'andata. Dunque siamo in cinque la famo. A chi tutti la sera l'invitati in altri luoghi non vi sono accuditi. E allora era minuti, ma siamo stati qui, ma... Pochi ma buoni che la siamo, è stato più bene quando sono pochi. Quando sono bene semplicemente. Anda così. E Giovanni Maria lo senti oggi? No, io non l'ho sentito per niente, va bene, l'ho acceso adesso. Gli ho mandato qualche fotografia anche a Luca, a Flippe, a Luca Manicomi. Hai visto Luca quella padana che ho piazzato? Quindi la doccia che lo sia. Ah, la doccia sta facendo. Ehi, dato che se fanno annoiarmi la piazzata a mia cognata. Una plafoniera e due lampadari di quelli moderni. Ma faccio molto 10 minuti. Hai travagliato pure oggi, adesso la plafoniera, i lampadari. Hai travagliato, allora, allora devi mangiare doppio. Se ci ha messo 10 minuti, ma a me è un gioco, cosa? Ma mi hanno prestato un abitatore a batteria, bello, fa anche a percussione per fare i buchi per i tassini. Un secondo vado bocca a bocca, ma... Dai, mi sono attrezzi, è veloce che lo sia. Tu sei uno degli attrezzi. E allora, io non avevo aperto, era Santa Arancia. Allora me l'ho fatto prestare da un amico mio che abita lì, e che lui ce li ha. I ferri perché fa lavora con tutto, autista, mobile, fa poco di tutto, è già là ferri, mi ha prestato quel trapano boccio a batteria, gli ha preso a poco, però travagliando un treno, un secondo di base lo buco perché funziona anche a martello, tipo tassellatore, fa abitatore, trapano e tassellatore, bello E l'ha pagato il burumbe, però è un bel comodo. Io mi raggio, ma davanti come sei, fatti di carica, so con un bel senza caricarlo. Fatti pure un trapano, abitatore e martello percussore. Fatti tutte e tre cose. Sono, ripeto, le batterie basso, il carico senz'altro, non ha dubbio a fare tanto, mette la valigia, ho la bacca, boh. Domani sicuramente lo pongo a caricare le batterie, se no si arruineggiano. Mettere la barca a caricare e farlo andare un po'. No, no. Se no ti si imballano, che le batterie costano un sacco di denaro. Mettilo a fare. Sì, sono batterie a 24 volts. E a 24 volts va quello lì. E dunque se non c'hai le batterie sue non andò. Aspetta un attimo che mi ha accanto mia moglie. Attendi pure, grazie. Eia! Stavi dicendo, Bacchi? Grazie, avviatoci. Cosa? È arrivato, adesso. Oia. Marino non si intende per nulla, ma detto, ci sentiamo stasera a fare delle prove. E lì si è appito la banca ancora. Chi giocando si possa mangiare chi dalla pazienza, va, la tua pazienza. La barza, la banca e le manieri dolcette, dolcettini. Marino già è di bocca. Marino è magnente di dolce, l'uovo di bacca di loro nipoti. Se è magnente Edo, siete con i nipoti. Edo l'ha comparato, però un nipote ma se ne è magnente. E allora un nipote si piglia la sorpresa e adesso si mangia il cioccolato. Ah, vedi, domani... Se intendo domani vi posso un poco di morte. E quello di zecchino di culo, avesse fatto così. Non rega manca l'amica invitando un pezzo di cioccolato. Molta grazia, l'ha lasciata a bocca asciutta. E allora, ma... Oh, ogni notte a vedere i miei rubini mi ha giovagnato un pezzo quadrato di su cioccolato fondente. Ma qui su laggiù. Isso è, si farà subito, si scioglie subito isso. E è buono. scritto, vai, sono già colato, grazie. Ficcio minoreggio. Oh, a me no. Vabbè, chi vi chiandono, ma a te se si sta mangiando cioccolato, però... Cioè, non ve lo fa quel difetto a me. E lo compro lì all'Eurospimmi. Adesso non mi ricordo quanto lo fa. Ci sono 10 quadratini mi sembra ci sono. E sono un 4x4 i quadratini. E beh, di gruccio, è 2 centimetri. No, io ero molto piccolo per tagliarlo. E se così, un po' molto piccolo a imbarrarlo. No, io mi pongo la tavola, chi tratta a tagliare l'affittato. Quindi un pezzo di scottese, lo pongo in mezzo allo scottese, prendo quel coltello a seghetto, glielo appoggio con la mano, lo spingo e fa spacchi. E faccio due tagli e lo faccio in quattro pezzi. E così gli altri mangiati, gli invito un quadratino e te lo mando in bocca, ti dura là, non so, 5 minuti a andarci lì. Però è buono, perché è bello, bello gadduzzo, umi. Poi il cioccolato al latte è buono, al latte è puro fondente, e si può mangiare. E si può mangiare da grazia. E fai bene, però devi ponere da là sotto, non puoi chiedere che vai a quadretini, ed è più facile da masticare. Ehi, ma non è masticata, me lo pongo in bocca e si scioglie, no? Ti riporti ogni tanto, no? E si scioglie da solo e rimane, pare come ti canto, bigli la Nutella, bigli un cucciare e tiri un buon cucciare in bocca. La parte è si cosa, adesso si scioglie i brutti. E sono del nuovo di bacca di mezzo lì e ne ho corso mai visto un sito grosso, se arrivi a un centimetro c'è qualche cosa di più puro. Sì, alcuni uova di Pasqua già è bello grosso, è buono bruissimo, mi piace, è bello mangiare tutti in campagna, così è anche al latte. Drente era bianco e pure marrolo, ed era buono, però rimane si scioglie prima quello al latte. E se qualcuno voleva entrare avanti, si è accerato, ma si è dato la Ianna, grazie. Si era la pista davanti che vuole entrare, beh, non sente nessuno, sarà caduto. Se fosse pista della banca. E allora è andata a fare un ruttino. E domani mangiare alle 3 se mi deve pisare un ruttino quasi. Ah, domani ha detto che fa di tempo, boh, forse è vento. Ma domani ci abbiamo... Non sei uscito? Perché questo qui ce ne incalchi forte, grazie a noi esci. Ah, così. E come mai? Ma cosa c'è, il microfono separato? No, il portatile sto usando, il portatile, hai attaccato l'antenna. Beh, il portatile lo devi schiacciare forte, boh? Sì, ce ne incalchi forte che se non funziona. Ah, il suo difetto va. Non è che magari se gli spulsi un po' di CRC lo ammorbidisce, o un po' di grasso spray. Avevo solo un coso, un macello, avevo portato nella morsa. Capito? Forse nella morsa voi. No, questo già è abbastanza... Boh, come schiacci fa tic, questo qua? Molle fa tic. E anche l'altro fa così, fa tic. Invece questo è più ribelle. Non sono tutti precisi. Vabbè. E pure oggi è passata, ha visto, bacca, arrivita e se ne è andata, va. Domani basquetta e già se ne andava pure basquetta. Ma domani non andrà nessun luogo. So che troppo in giro questo periodo. Lascia dire ma a te, no. Chi andrà in giro? Ma lì non squillendo il telefono mezz'ora e non risponde. Non la gana. Quindi non ti rispondi. A meno che non è invitato o va gente e non risponde magari per quello. A me mi pare un telefono si è imbriacato. E mia sorella mi ha mandato un video, lo marito di miei nipoti, che fa il suo lavoro, anda di locale a invitare le macchinette, quelle lei, che usi a giocare, fa quel lavoro lì. Ed era uno che conosce, Gotto, che era l'altra, e l'ha ripigliato e me l'ha mandato. Un filmino mi ha mandato, tu mi imbriachi, ragazzo si rigia in piedi. E si è fatto Pasquetta, beh, anzi Pasqua, è venuta festeggiando Pasquetta. Ma se l'imbriachiera oggi non andava bene, ma domani già si può fare un'imbriachiera. Chi dice imbriacheggiare però, chi dice lo abitui, già non andava bene. Uno che non è abituato non si imbriacheggia, sta tranquillo. Oh! Cacca e bolsa, cacca hanno gli armi su questo burui, ma a Pasqua no. Quando facciamo le scampagnate burro a mare, capito? Che eravamo tutti in greve, allora sì. Se no, no, al giorno di Pasquetta no. A Pasquetta sì, a chi sei in greve. È così. Piano piano, e poi però a fare cotturi non penso più, a chi non siamo allettati fa cotturi. Si conserva buonanotte, siamo amici tutta la vita. E la poi avevano fatto più, con tutti i miei genitori figli, no. Prima magari era di meno la cosa, pure i malanni. Allora sì, e poi andati spesso in giro con amici, burro, capito? E allora era diverso, adesso non fa, ui. Non lo faccio più, io senza alcol lascio con la dita, non mi posso più, vietato, anche le pastiglie sono pubblienti, vietato, non fare uso di alcol. No, io sino ultimamente mangiando cacchetta zitta di vino, mangiato, secondo cosa mangiavo, già me lo bevevo un bicchiere di vino. Anzi, mi l'ha detto burro di abettolo, ma un bicchiere, non un litro. Solo che adesso è un periodo che non lo sto più bevendo perché sto prendendo troppe medicine, capi? Con il cortisone non fa e non lo sto bevendo più. Magari quando mi dico un cortisone, cacca sta zitta, ma niente. Dipende da cosa mangio, che mi la vico. Sempre dipende da cosa sto devo mangiare, capi? Se no non è piccolo. Eva e bu. Eva, non si è casata pure. Perché la settimana succede. Però niente alcol, niente. Perché sono pochini dopanti. Dunque niente da fare. Niente alcol. E prima con mezzo tassista mi avevo via, ma dopo mi ha andato sui bacilli, mi ha interrotto. L'alcol si sono dimenticato, lo lascio dentro la bottiglia, il vino, la birra e tutto. E infatti rimane entrare in culla. Però in campagna mi sarà che caccia di lattini di birra, sarà pure variata. E beh, la scadenza già ce l'hanno, basta mai dalla dura scadenza, già per scritto. C'è caduta della lampia, sai? Se non è caduta, quando viene caduto gliela offri. Se non è scaduta, c'è scritta la scadenza. Già c'è scritta. E così devo guardare anche questo per di frutta, è un casino. Bitter, è di tutto, le aranciate. Non mi viene nessuno, quando viene in equivoco, qualcuno si accialava. Una lattina di birra, due lattini, è nulla, no? Io volevo mi via un succo di frutta e così non c'è consumo questa parietta, infatti devo abbaitarla, la pongo dentro una scatola, alle cassolette, via, lampada di tutto. E li controlli se non sono scaduti, ti rivi tu, le zucche di frutta, la birra, se ne è caduta la grande cade, se no viveva nessuno della lampia, però il succo di frutta, se non sono stato te li bevi invece di andare a bittire e vanti il succo di frutta, non manco di consumi, non manco vissi, capito? È vero. Sì, è davvero. Mi dimentichi che la zia che l'hanno fatto il frigorifero. mi dimentichezzo. Avanti, no. Ehi, cosa avete mangiato oggi? Oggi abbiamo mangiato benissimo. Forcetto e buh. Ah, vabbè, io pasta al forno. Un pezzo d'agnello era arrosto, agnello. E poi insalata, frutta, frutta un bel. E poi sono sceso giù in campo e mi sono mangiato, non dico un, non dico un chilo, ma un po' di fava mi sono mangiato, quelle piccoline, buona rediso. E sono buonici, capita, chi ci denari lì, con il sale, te le unghi. Noi abbiamo fatto agnello in tegame, agnello in forno, porcetto in forno, minisali, pevaroni, poi la goggiola, la cassarula. E venire a rimanere la gita, adesso doveva venire un esercito a mangiare. E infatti è rimasta un bel roba, per carità, frutta, di tutto, vedi, grazie, mi hai castigato a bacchissimo, vabbè, dai. Comunque abbiamo mangiato tutti oggi, domani un po' a dieta, domani non mangiamo molto. Domani si mangia di più, Luca, domani si mangia di più, oggi è la più pesante roba, domani in campagna digerisce di più. No, io domani non sono in campagna, se il tempo lo permette scendo ad Alghero, se no a casa. A casa domani mangiamo di più, no, Mari? Io non ci vado domani in campagna. Oh, me ne so che in casa. Domani so che in campagna. Ma a travagliare però, oggi di innaffiare tutto secco. Ehi, vabbè, noi è un travaglio, mi dirà buon pagnaffi. Cosa apri? Apri lo socco e andare giù la leva. Sì, sì, andare giù, arrivi giù la baita, tipo se a Catri e esiste quando arrivi. E allora lo faccio io così, la sera apri lo socco, da voi andate a lei pur capo, s'arrabo qui, s'apri all'altro, quando arrivi a Vizzaggio sulleva, mi pisavo, vattene dal muretto, s'arrabo qui, s'apri all'altro socco, ma già funziona tutta la giura. Invece la sera va giù l'uomo, fa tutta la giura. Quando arrivi io la volevo dall'osservatoio e l'uomo durante la sera in affieggia. E quando piantavamo un bene, va via il vascone, no? Pieno, apriva tutti i socchi da capo, la riga, come te che c'era pieno, si chia, pigliava tutti i socchi, faceva tutti i socchi e non faceva nulla. Quando arrivi a Vizzaggio, sulleva, e puttavo la bomba dalla sabbatti. Te lo voglio dire. Noi che mi faccio più piattagoccia della serra, dunque. Apri un vascone e una pieggia la sera. La fai un ridotto un'ora e dopo i salvi. E quello ce l'avevo anche io dall'altra parte, dietro la casa. C'avevo quei tubi con tutti quei forellini. Quello c'avevo l'orologio. Lo mettevo un quarto d'ora, apriva e funzionava la giura, dopo un quarto d'ora si chiudava tutto, alla giura. Sì, sì, le male cose sono quasi, le centralini di radio sono praticate, i video sono praticati. E dunque è inutile, lo fai manuale, apro il rubinetto delle soffie che rinascono, apro e fa la leva, da che anda a il rubinetto e non fai il tempo, fai altre cose nel frattempo che stai ne prendi e dai un euro per il sommo che diventa la sera e ne prendi tutto. Io gli avevo fatto la nicchia con lo sportello e lì c'erano l'orologio con la centralina, da lì faceva tutto, funzionava tutta la giura. E devo dire, andate a controllare se arrivo tutto, boh, tutto va. E infatti così. E così, avanti lui. Sto allontanato. E io ero qua, così, ma tu dici subito, subito andiamo a imbottire. Ehi, Luca, già organizzatoci la cena, sta. No, sono qua, relax. Ah, via. Ehi, C'era bello in campagna quando era tutto piantato, c'erano gli animali, le oche, i tacchini, i corille, i buchi e a buglia, a buglia. Allora già era bello. Purtroppo si è andato tutto a finire al monte. Per le monte, i monti, muni. Ma Carrucci vuole le monti. Cosa? Ma chi non l'ho copiato che mi ha chiamato? Zitto, che la monza, avevo fatto al russo. E allora, più di una ne ha giubato in altra graviglia così, me. La gatta arruscita così, solo che io non le mangio. Però se le mangiavamo in musica, poi già se le mangia. Io non ne posso mangiare né monza, né cucù, né ciocca, che mi viene intuzzicato. Ci ho provato, ma mi va male. Pure è una cosa che indicano i medici, perché dice che fa bene il corso della monzetta, delle uvaconi, via dicendo. Ma dici una malattia rara, la doia? No, abbiamo fatto... Da Giovanotto, in Greffa, nella villa di Marcito. Una cena a base, tutti amici, no? In Greffa. A base di cocco, cioga, mozzette, cotte in vari modi, tutto quanto. E la solo di chi si romagna. Ma finirà a quintali. E a me mi ha fatto male, a me non si sa cosa mi ha fatto male. O la monza, il cocoio, cacca e ciocca, chi non deve essere, noi l'è maciuta e mi sono fatto rigido. Fazia papa, mi sono buttato al pronto soccorso, tetano dritto, ed ero intossicato dalle lumache. E nell'arco del tempo, con gli anni, ci ho provato a assaggiarla. E mi sentivo come mi ha fatto quella volta. La batteria se n'è andata. No, è finita. E mi ha intossicato e non posso mangiare. Ci ho provato, però non fa. Che cucuglio, che ciò che non è marcito a me, ti ha fatto male. L'hai trovata tu, invece ci fa la latte e ti ha fregato. E infatti adesso mi fa reazione, anche se assaggio tre lumachine, me lo fa subito, me lo sento subito questo formichino in faccia. Sì, addirittura, anche la giocaminuta te lo fa. Eppure, è strano. E allora era così, grazie, che con cui noi l'hai marcito me, e l'hai avuto tu, non uno, magari più di uno. Ehi, ma avvelenato brutto, ma intossicato. Ci ho provato nell'arco degli anni e però mi va già quell'effetto là, allora non ne mangio. Ho provato a assaggiarle, due o tre lumachine, e mi fa subito la formichina in faccia. Allora nulla, bisogna lasciare stare, lasciare riposare, nulla la gioca. Raccoglila della Paoletta, se voglia Paoletta. Già le raccolgo, le compro, ma i bilbaetti io non li mangio, anche se ci ho provato a assaggiare, non fa, se no gli ami piaziani a mangiarli, ma purtroppo non fa. Non fa, nulla fa. E poi io voglio, uno quando è intossicato, mamma mia, ne so qualche cosa. Ne ho fatto un mese, ne ho fatto di ospedale per l'intossicazione. Mica c'era anche io un mese mia all'ospedale, in piazza Fiume mi avevano ricoverato, allora era lì, all'ospedale, avvelenato, e sono stato anche avvelenato col formaggio io, a chi va via l'urrammini in mezzo, rugaccio, e mi ha crebato, mi sono costato due mesi a rifilare, sempre in piazza Fiume mia, lì era ancora più ragazzo. Sì, il ragazzo sì, che... Questa Fiume cos'era? Negli anni 60-62 mi sembra che esaltato, l'avevi fatto un palazzo nuovo. Però c'è stato l'ospedale nuovo, parlo di 3-4 anni fa, da un mandarino. so io il formaggio, quel pastore non aveva lavato bene i tegami dove faceva il formaggio e c'aveva l'urrammin in mezzo, si dice, non sa, e mi ha avvicinato e poi la gioca, o la gioca, cucù, non lo so cosa mi ha fatto male, in chi si è mangiata gioca, vera, mosette e cucù, me lo ricordo benissimo. Ha fatto male solo a me, ha pizzicato a me se va sì. E adesso è più di una bruna già avuta. E ha giovagnato con un'imbriacchietta che vera, ne sappia assai, così che si lava una guaccia. Come Lorenzo, in sacca vai. Oh, bene, grazie. È arrivata l'ora di prendermi le medicine, va, fa la giossa che mi piglia le medicine. Ah, in bottiglia, se no è un guaio domani. Bene, grazie della quattro chiacchiere, saluta la signora, buona fine settimana, serata ancora e buona Pasquetta per domani. Anche per Luca la stessa cosa, ciao Luca, buona serata, saluta in casa, buona fine Pasquetta, Pasqua e buona Pasquetta per domani. Bacchisio, ascolta il finolino e vai in QRT, vai vai, vai Graziano. Ciao Bacchisio, domani se coincide, buona cena, buon tutti, saluti in famiglia. Vai Luca, se ci sei ancora. Ciao Bacchi, saluto, a domani. Buona Pasquetta per domani, buona cena, ciao, a domani, ciao. Ciao Luca, ciao Graziano. E adesso chiedo pure io che pure mi devo fare l'insulina. Luca, ci sentiamo, a domani se coincide. Buona cena a te a Marina, bacione bambini, statemi bene. Ciao, ciao. Luca Caruto, sì. No, sono qua, grazie, dimmi tutto. Sto chiudendo, va. Ci sentiamo domani, se coincide, chi pure mi devo fare l'insulina. E niente. Va bene, buona cena a te a Marina, a domani. Bacioni, bacioni, salutami bambini, ciao! Ciao, grazie, sotto la folletta anche da parte di Marina, ciao! Ciao, ciao!